Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vabbè, tutti gli italiani sono benvenuti a Londra. Sorry, forgive me. I'm very grateful to my honorable friend. Tutti gli italiani sono benvenuti, insomma, si capisce, anche se non italiano un po' maccheronico. Questo è Boris Johnson, ministro degli esteri britannico, che in un'interpellanza al Parlamento britannico oggi, chi gli aveva chiesto, insomma, dopo la Brexit, gli italiani, gli stranieri sono ben accetti, ha detto che per quanto riguarda noi, insomma, si è capito che sono ben accolti. Parleremo però oggi qui Effetto Notte di molti altri temi, parleremo soprattutto dell'ultimo grande appuntamento mediatico per le presidenziali americane. Sapete, stanotte c'è alle 3 e qualcosa ora italiana di notte l'ultimo duello tra Hillary Clinton e Donald Trump. Chi l'avrà vinta? I due precedenti incontri li ha avuti vinti Hillary Clinton. Qui si aspettano anche grandi sorprese, perché qualcuno dice Trump non ha più nulla da perdere. Ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti e poi parleremo anche dell'atterraggio, o meno, non si è capito, del lander Schiaparelli. C'è un grosso contributo italiano in questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea. Ha raggiunto o non ha raggiunto Marte? C'era stata grande esultanza, sembrava che fosse atterrato sul pianeta, c'erano i contatti e le comunicazioni, poi si è perso il segnale. Ci collegheremo col presidente dell'Agenzia Spaziale per capire che cosa sta avvenendo sul pianeta rosso. Intanto però, come di consueto, fra poco vi racconto in sintesi la giornata e voi potete mandare i vostri messaggi, come sempre, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure i messaggi WhatsApp attraverso il 349-238-6666. Verso il vertice europeo di domani, Renzi replica a Bruxelles, la manovra rispetta tutte le regole, la procedura di infrazione va invece a chi non rispetta le regole sui migranti. L'Europa alla conquista di Marte, fiato sospeso per la sonda Schiaparelli sul pianeta rosso, persi i contatti poco prima che toccasse il suolo, ma non si perdono le speranze di stabilire altri contatti. Stati Uniti, stanotte duello finale tra i due candidati alla Casa Bianca, secondo gli ultimi sondaggi Hillary Clinton sarebbe in vantaggio di 9 punti e la Banca Centrale Americana nel Beige Book parla di prospettive economiche positive per gli Stati Uniti, ma aggiunge che le elezioni sono un fattore di incertezza economica. Allarme call center in Italia a rischio, secondo i sindacati 70-80 mila posti di lavoro, e sul caso Almaviva il Ministero dell'Economia avverte le aziende committenti, tolleranza zero sulle gare al massimo ribasso. Il processo Rubiter, rinvio a giudizio per Ruby e altre 22 persone, tra cui la senatrice Maria Rosaria Rossi. L'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, assolto dopo 16 anni di carcere il somalo Hassan per non aver commesso il fatto, la madre di Ilaria dice non avremo mai la verità. L'infinita serie di femminicidi, questa volta in provincia di Caserta, un uomo ha ucciso con un colpo di pistola la moglie che si voleva separare dopo aver subito anni di violenze. Gli ostaggi italiani uccisi in Libia, indagato un manager dell'azienda Bonatti per omicidio colposo e violazione delle norme a tutela del lavoro. Asili nido, la Camera dal via libera alle telecamere contro gli abusi, il testo ora passa al Senato. E per il calcio, Champions League, dopo la vittoria di ieri della Juventus, questa sera tocca al Napoli con il Beşiktaş. Partiamo quindi dalle parole del Presidente del Consiglio Renzi sulla manovra. Alla stampa riunita l'ambasciata italiana a Washington, dove si trova Renzi, il Presidente del Consiglio ha detto tutte le volte la discussione a ottobre è la stessa. Cosa farà l'Unione Europea sulla legge di stabilità italiana? La nostra è una legge di bilancio che pensa ai cittadini. Ha detto 2 miliardi in più sulla sanità, un fisco che non ti frega soldi con le sanzioni, crescita e pensioni. Dice Renzi, è una manovra che rispetta le regole. Questa legge di stabilità rispetta totalmente le regole europee. Poi se l'Unione Europea vuole darci dei suggerimenti, segnalarci, fare con punti specifici su cui discutere, noi siamo ben pronti ad ascoltare. Quanto alle procedure di infrazione, noi stiamo aspettando la procedura di infrazione. Ma la procedura di infrazione che stiamo aspettando è quella che l'Europa deve fare a quei paesi che avevano promesso di accogliere i migranti e non lo stanno facendo. Spazio con l'Europa alla conquista di Marte, fiato sospeso per la sonda Schiaparelli sul pianeta rosso. La missione dell'ESA ha vissuto oggi i suoi 6 minuti di terrore. Il lander si è tuffato nell'atmosfera del pianeta rosso a 21.000 km all'ora per poi rallentare fino a zero con dei razzi e paracadute. Non è però chiaro in che condizioni appunto sia atterrato. Sono stati persi i contatti poco prima che toccasse il suolo e più tardi, vi dicevo, ci chiarirà la situazione. Si spera il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, e tra l'altro c'è un grande contributo contributo, questa missione, vi dicevo, da parte dell'Italia. Stati Uniti, stanotte duello finale tra i due candidati alla Casa Bianca, Donald Trump e Hillary Clinton. Secondo gli ultimi sondaggi, Hillary Clinton sarebbe in vantaggio di 9 punti, ma riuscirà a convincere gli indecisi e a votare per lei anziché contro Trump? Ci collegheremo più tardi direttamente con gli Stati Uniti. Nel frattempo, la figlia maggiore più in vista di Trump, Ivanka, ha detto: «Mio padre accetterà il risultato delle elezioni qualunque esso sia», perché evidentemente, rispondendo al fatto che Trump negli ultimi giorni ha evocato ripetutamente lo spettro delle elezioni truccate, provocando anche una dura reazione da parte del presidente Barack Obama. E restando sugli Stati Uniti, la Fed nel Badge Book, la Banca Centrale Americana nel Badge Book, che è il rapporto sullo stato dell'economia americana e che farà poi da base alle prossime decisioni di politica monetaria, scrive che le prospettive dell'economia americana sono per la maggior parte positive, con una crescita economica modesta o moderata, ma aggiunge che le elezioni sono un fattore di incertezza economica. E a proposito di incertezza economica, siamo adesso sulle notizie italiane. Allarme call center dai sindacati, a rischio, dicono, decine di migliaia di posti di lavoro. Una crisi di settore potrebbe travolgere i call center, migliaia i posti di lavoro a rischio, non solo quelli legati alla vertenza Almaviva. A lanciare l'allarme sono i sindacati, come spiega il segretario generale del sindacato lavoratori delle comunicazioni della CGIL, Riccardo Saccone. Noi calcoliamo che sono circa 80.000, che sono tutte quelle persone che dal 2007 ad oggi sono state oggetto di una stabilizzazione dei rapporti di lavoro e che in virtù del massiccio ricorso alle delocalizzazioni e delle commesse al massimo ribasso, oggi rischiano di essere seriamente fuori mercato. A sollevare il velo sullo stato di salute del settore dei call center è stata l'avvertenza Almaviva, che, persa la commessa con l'Enel, ha annunciato il trasferimento di 400 lavoratori di Palermo e 3.000 licenziamenti tra Roma e Napoli. I sindacati chiedono alla Commissione Lavoro del Senato di intervenire con norme ad hoc per bloccare le delocalizzazioni, ma il caso Almaviva è solo la punta di un iceberg. Ci sono molte Almaviva, c'è JPIN a Roma e Napoli, c'è QE a Catania, ci sono tante altre aziende che in questo momento sono sotto ammortizzatore sociale, ma come sapete c'è stata la riforma e quindi gli ammortizzatori sociali non sono infiniti e quindi a breve rischiamo di averne altre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dal Ministero dell'Economia fanno sapere che il 17 ottobre il Ministro dello Sviluppo Calenda, con la Vice Ministro Bellanova, ha convocato i rappresentanti delle aziende committenti dei servizi di call center ed è stato perentorio nell'indicare la linea di tolleranza zero del governo nei confronti di chi continuerà a procedere con gare al massimo ribasso. E c'è una novità sugli asili nido. Via libera dell'Aula della Camera la proposta di legge che consente l'installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socioassistenziali per anziani, cioè strutture sia pubbliche che private, per contrastare gli abusi sulle persone più indifese, di cui troppo spesso le cronache danno notizia. Il testo è stato approvato a Montecitorio, alla Camera, con 279 voti a favore, 22 contrari, 69 astenuti. Ora comunque deve passare al Senato. Sinistra Italiana ha votato contro, il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Chi era contrario ha spiegato la propria posizione dicendo che si tratta di una soluzione superficiale, improvvisata, fuorviante, perché le telecamere, dicono, alterano la spontanea e corretta relazione educativa insegnanti-bambini e insinuano nei bambini ulteriori forme di paura. La ministra della Salute, Beatrice Lorenzini, ha nominato Mario Melazzini nuovo direttore generale dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Melazzini lascia l'incarico di presidente e sostituisce Luca Pani, che ha presentato le sue dimissioni in anticipo rispetto alla scadenza di metà novembre. L'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. La Corte d'Appello di Perugia ha assolto, per non aver commesso il fatto, il somalo Ashe Omar Hassan dall'accusa di aver partecipato all'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin a Mogadiscio nel marzo del 1994. La sentenza è arrivata al termine del processo di revisione, mentre Hassan ha scontato ben 16 anni di carcere dei 26 anni che gli erano stati inflitti. Grazie a Dio è finita, ha detto, ora devo cercare la mia famiglia perché sono 19 anni che non la vedo, ha detto dopo la sentenza. Sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. Mi sono sempre chiesto se vale la pena morire per il giornalismo. La vicenda di Ilaria Alpi con le bugie e le menzogne connesse ci dimostra che non ne vale la pena, ma c'è sempre la speranza che le cose si aggiustino. Ilaria Alpi e Mira Robertin si erano recati a Mogadiscio nel 94 e in Somalia avevano scoperto un vasto traffico di armi e di rifiuti che coinvolgeva il nostro paese e avevano raccolto le testimonianze che questa mala pianta, con ogni probabilità, era annidata all'interno delle pieghe delle attività di funzionari dello Stato in malafede, strani faccendieri che mandavano avanti affari illegali con i signori della guerra e che armavano a seconda degli interessi le varie fazioni in conflitto. Il somalo Hassan è rimasto imbrigliato in questa trappola, è stato arrestato, condannato e dopo 16 anni di carcere assolto. Tutto quindi torna a quel 20 marzo 1994, a 22 anni fa. Per la morte di Ilaria e Mira non vi è alcuna giustizia. E ha ragione Luciana, la madre di Ilaria, a dire che non avremo mai la verità. Ed è come se i due giornalisti fossero morti di caldo. Poi invece un altro processo. A Milano comincerà l'11 gennaio il processo Rubiter, quello sulle presunte false testimonianze. Oggi il giudice per l'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati. Il Bunga Bunga torna di nuovo in aula per il terzo processo da quando le serate di Arcore sono diventate materia giudiziaria e questo sarà il processo, stando all'ipotesi della procura, sui silenzi comprati e le versioni falsate. Sono stati infatti rinviati a giudizio 23 tra gli ospiti abituali delle notti a casa di Silvio Berlusconi, la cui posizione invece è stata stralciata per motivi di salute. E allora a dibattimento vanno tra gli altri Carlo Rossella, presidente Medusa, la senatrice Maria Rosaria Rossi, oltre alla stessa Rubi, al suo ex avvocato Luca Giuliante e a molte altre olgettine, starlette frequentatrici delle notti hot di Villa San Martino. A partire dall'11 gennaio una corte dovrà stabilire se l'ex premier, che ha sempre ammesso di aver dato soldi alle showgirl per ricompensarle a suo dire del danno subito dagli scandali, si sia invece così comprato i loro silenzi nel processo per prostituzione minorile in cui poi è stato assolto in via definitiva. All'inizio gli imputati erano anche di più, ma poi le posizioni di Mariano Apicella, ad esempio, di altri abitué di Arcore sono state sparpagliate tra vari tribunali. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche la Guardia di Finanza di Polizia Valutaria partecipa in supporto alla Consob all'ispezione disposta da quest'ultima a Milano nella sede del gruppo Sole 24 Ore. Gli ispettori e i militari delle Fiamme Gialle, secondo quanto è trapelato, stanno raccogliendo ogni utile documentazione riconducibile al contenuto di alcuni esposti recapitati nei giorni scorsi alla stessa Consob sulla situazione contabile del gruppo. In merito all'ispezione, il gruppo 24 Ore commenta: massima trasparenza, massima tranquillità, massima collaborazione, siamo un libro aperto. E adesso parliamo invece degli ostaggi italiani che sono stati uccisi in Libia. C'è un indagato per la loro morte, per i due tecnici della Bonatti, Failla e Piano, è il manager responsabile della logistica dell'azienda di Parma. Nessuna tutela, scorta o precauzione. I tecnici della Bonatti, Salvatore Failla e Fausto Piano, sono stati sequestrati in Libia e poi uccisi anche per colpa di gravi mancanze da parte di chi avrebbe dovuto proteggerli. Ne è convinta la Procura di Roma, che ha inviato i carabinieri del Rossa a perquisire la sede dell'azienda a Parma e ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile della logistica, Dennis Morson. Il manager, accusato di omicidio colposo e violazione della norma sulla sicurezza, non avrebbe adottato le misure necessarie per tutelare l'incolumità dei due italiani rapiti a luglio 2015 mentre si stavano dirigendo da Tunisi al complesso Mellita Oil and Gas. A marzo sono stati uccisi durante una sparatoria. Insieme a loro c'erano i colleghi Calcagno e Pollicardo, poi rilasciati. Nessuna notizia invece di altri due italiani, tecnici della Conicos di Mondovì, Bruno Cacace e Danilo Calonego, sequestrati un mese fa, sempre in Libia. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca adesso con questa scia infinita di femminicidi, non ce ne facciamo mancare quasi uno al giorno. Nel Casertano è successo un uomo, Carmine da Ponte, ha ucciso con un colpo di pistola la moglie Stefania Formicola di 28 anni che si voleva separare dopo aver subito anni di violenze. La madre della vittima ha detto: mia figlia aveva paura, per questo non ha mai denunciato. Secondo i familiari della vittima, Stefania potrebbe essere stata costretta sotto la minaccia della pistola a salire in auto insieme al marito, dove poi le ha sparato. Per Da Ponte è scattata l'accusa di omicidio aggravato e detenzione illegale di arma. E c'è notizia di un bimbo di 2 anni e mezzo, Leonida Di Rocco, che è morto dopo essere stato azzannato da uno o più cani in contrada di Cepagatti nel Pescarese. Sul posto era arrivato un elicottero del 118, ma a quanto si è appreso i genitori avrebbero tentato una corsa disperata all'ospedale più vicino, quello di Chieti. Siamo adesso alla Champions League, vedo un pareggio, Dario Ricci? Sì, hai proprio ragione Roberta, perché è davvero effervescente questa prima mezz'ora di Napoli-Besiktas al San Paolo, col Napoli che tra l'altro è andata vicino al raddoppio proprio in questo istante, con un tiro cross su cui il portiere del Besiktas stava per fare un pasticcio, ma siamo sull'1-1, 1-1 con i turchi che addirittura erano passati in vantaggio all'undicesimo con Adriano, bravo ad approfittare di un cross di Quaresma, l'ex interista, e poi al 28esimo è arrivato invece, anzi no, al 30esimo è arrivato il pareggio di Mertens, che ha deviato in rete un cross rasoterra di Calleon, quello stesso Mertens che pochi istanti prima aveva fallito di testa la rete dell'1-1, che poi ha trovato un paio di minuti dopo. Nell'altra gara del Gruppo B, il Benfica in vantaggio sul campo della Dinamo Kiev, da sottolineare sempre per il Napoli, e vado a chiudere, in panchina Gabbiadini, a sorpresa Sarri sta schierando come falso centravanti Mertens, finora una scelta che sta premiando il tecnico partenopeo. Grazie Dario Ricci, quindi Napoli con la squadra turca 1-1 per il momento in Champions League, ci aggiorneremo poi dopo per capire come procede la partita, invece tra poco capiremo come procedono queste presidenziali, questa campagna elettorale negli Stati Uniti, visto che c'è il confronto finale questa notte per quanto riguarda l'Italia alle 3 e qualcosa. Intanto i vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, Francesco scrive sul fatto che la Camera ha dato il via libera alle telecamere negli asili e nelle strutture per anziani, dice: chi lavora correttamente non avrà nulla da nascondere, quanto ai bambini sono i cattivi insegnanti a spaventarli e non certo le telecamere. Luciano dice benissimo, mi piace, oggi la maggior parte delle investigazioni si sviluppano in modo positivo grazie alle telecamere, le troviamo negli incroci, nei bar, nelle banche, e a me questa soluzione piace. Ilaria dice: io sono abituata a lavorare ripresa dalle telecamere e non sono un'attrice, e monitorata, ci si abitua, non so se sia una soluzione ma almeno un deterrente, l'unico dubbio è che forse gli anziani e i sofferenti potrebbero desiderare maggiore discrezione sul loro disagio. Ci sentiamo tra pochi istanti. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di notizie ne abbiamo ampiamente parlato nella ricostruzione della giornata, come sempre all'inizio di Effetto Notte. Roberta Giordano sempre con voi. Tra poco vi ricordo i titoli principali, perché non tutti riescono ad accendere puntualmente la radio alle 21, un'ora dalle 21 alle 22 in cui potete avere il riassunto della giornata e poi l'approfondimento di alcuni temi in particolare. Tra poco ci collegheremo con gli Stati Uniti e intanto i vostri messaggi potete continuare a inviarli per interagire con il programma sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio, dice Fabio: ma chi ha stabilito che ha vinto la Clinton? I giornalisti venduti, come ce ne sono tanti anche qui in Italia. Scusa Fabio, nessuno ha stabilito se ha vinto la Clinton, semplicemente gli ultimi sondaggi che arrivano dagli Stati Uniti dicono che Hillary Clinton è sopra di 9 punti, poi magari invece succederà un ribaltone, ma semplicemente riportiamo le notizie, Fabio. A volte ci sono questi allarmismi o attacchi così senza motivo. Tra poco, dicevo, ci collegheremo con Marco Valsania. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali. Renzi all'esame dell'Unione Europea, dice: la nostra manovra rispetta tutte le regole, siamo a rischio procedura, sì, dice, solo per chi non accoglie i migranti. Questo ancora da Washington, dove sapete che è in visita al presidente Obama. E poi ExoMars è su Marte, il lander Schiaparelli, c'è il fiato sospeso perché non si è ancora capito, era arrivato il segnale dal pianeta rosso, poi però è scomparso, bisogna capire appunto se questo lander, questa sonda è arrivata o no su Marte, in quali condizioni. E poi a proposito dell'Iraq e della battaglia per scacciare definitivamente l'ISIS da Mosul, che è la roccaforte in Iraq del sedicente Stato Islamico, ebbene oggi gli Apache, si sono visti Apache statunitensi, gli aerei da guerra americani in azione nei cieli dell'Iraq. E poi appunto nei sondaggi per le presidenziali americane Clinton vola, ultimo duello TV stanotte con Trump, sarebbe avanti lei di 9 punti, e certo WikiLeaks fa paura con nuove mail, capiremo poi se effettivamente Assange ha intenzione di entrare così a gamba tesa nelle elezioni presidenziali. Allarme in Italia per i call center, a rischio, dicono i sindacati, 70-80 mila posti di lavoro. Il processo Rubitera, giudizio Rubi e anche la senatrice Maria Rosaria Rossi, altri 21. Le accuse vanno dalla falsa testimonianza alla corruzione. Per quanto riguarda invece il lungo processo, lunga vicenda dell'uccisione di Ilaria Alpi, del giornalista del TG3, dell'operatore Miran Hrovatin, è stato assolto il somalo Hassan dopo 16 anni di carcere perché non ha commesso il fatto. E poi per gli italiani uccisi in Libia, indagato un manager dell'azienda Bonatti che non avrebbe provveduto alla sicurezza e alla tutela sul lavoro. Mentre per la Champions League c'è un aggiornamento, c'è il Napoli contro la squadra turca e per il momento è in svantaggio per 2-1. Dario Ricci, ci sei tu che dai più nel dettaglio? Turca si chiama Beşiktaş, quindi il Beşiktaş, ripetiamo tutti insieme, Beşiktaş che è andata in vantaggio, cara Roberta, sì, al di là delle mie battutacce, al 37esimo di gioco, turchi di nuovo avanti al San Paolo, c'è stato un clamoroso errore della difesa partenopea che di fatto ha lanciato il contropiede turco, ne ha approfittato Abubakar che ha battuto Reina in uscita disperata. Adesso un Napoli che cerca subito il nuovo pareggio, Zielinski calcia dal limite dell'area, uno splendido destro dai 25 metri, bravo il portiere dei turchi Fabri a respingere in calcio d'angolo. Era quello con le scarpette fucsia, Zielinski? Qualcun altro ce l'ha rosse fosforescenti. Insomma, diciamo che non passano ormai inosservate. Ormai c'è libertà, sui colori, sulla moda calcistica. Ormai sì, speriamo che cambi invece il colore di questa serata che per il Napoli sta volgendo decisamente al nero, quindi 38esimo di gioco al San Paolo, Napoli 1, Beşiktaş 2. A dopo Dario Ricci, invece adesso noi ci colleghiamo con gli Stati Uniti, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao a voi. Perché naturalmente adesso parliamo delle presidenziali americane, stanotte c'è il dibattito finale o scontro finale, se vogliamo dare un'accezione così più drammatica, più pathos, a questo ultimo confronto televisivo appunto tra Hillary Clinton e Donald Trump. Il teatro, la scena è l'Università del Nevada, Las Vegas, mi confermi Marco? Sì, è così, Las Vegas in Nevada, un altro degli stati così considerati a lungo incerti, ma che oggi propendono per la Clinton e quindi diciamo danno il segnale a sua volta della così difficoltà a questo punto della corsa di Donald Trump. Marco, qui probabilmente ci saranno, si immagina delle sorprese questa sera, questa notte, in realtà lì sarà pomeriggio, tardo pomeriggio, perché da una parte si dice Trump non ha più nulla da perdere e poi ci saranno proprio anche gli attacchi finali, no? Tutto quello che potranno spendere contro l'avversario si immagina ci sarà, perché mi pare che il fair play sia un po' stato archiviato ultimamente. Ricordiamo che nel primo dibattito del 26 settembre diciamo ha avuto la meglio Hillary Clinton, no? Nel secondo lei è stata più sulle difensive però è stata premiata dai sondaggi. Adesso bisogna capire se lei riuscirà a convincere gli indecisi o se qualcuno riterrà che Trump possa essere davvero il cambiamento. Tra l'altro vedevo poco fa, ne davo anche notizia, che Ivanka, la figlia maggiore di Trump, ha detto: mio padre accetterà l'esito delle elezioni qualunque esso sia, perché Trump più volte ha detto ultimamente è tutto truccato, anche la campagna elettorale, chissà, certo, le elezioni. Si potrebbe scherzare sul fatto che no, su chi paga sulla battuta di Trump, chi paga per il muro del Messico, no? Quando il presidente messicano ha detto che non avrebbe pagato, Trump gli ha detto no, pagheranno, è solo che non lo sa ancora. Perché lui vuole erigere Ivanka, questo muro tra il Messico e gli Stati Uniti. Forse nel caso di Ivanka e Donald si può dire che forse suo padre però non lo sa ancora che accetterà il risultato, perché finora ha detto che sostanzialmente che non ha intenzione di accettarlo, no? Denunciando cospirazioni contro di lui, truffe alle urne prima ancora che si voti. Insomma, a proposito di cospirazioni, Marco, tra l'altro sappiamo che parte del suo stesso partito repubblicano non lo sostiene. Marco Rubio, che è senatore repubblicano, avrebbe consigliato di non usare le rivelazioni di WikiLeaks contro i democratici. Ci dici esattamente in cosa consisterebbe? Sì, Marco Rubio è stato il più critico nelle ultime ore proprio contro Donald Trump e non solo, cioè lui corre per il Senato in uno stato appunto dove i repubblicani sono adesso in difficoltà, la Florida, E appunto, oltre a dire a Trump che deve smetterla di attaccare la legittimità delle elezioni americane, ha anche detto che i repubblicani dovrebbero smetterla di usare WikiLeaks, citando il fatto che le agenzie di intelligence americane hanno fatto risalire le operazioni di hacking ai danni dei democratici, e quindi le operazioni che hanno portato alla violazione dei server, dei computer del partito e al furto delle email. Ecco, li ha fatti risalire a Mosca, e quindi a una manovra comunque di manipolazione del processo elettorale americano da parte di una potenza straniera. E quindi Rubio ha detto: non è una cosa che non si può fare, dare in qualche modo, fare da sponda a una potenza straniera. E ha anche avvertito: oggi succede ai democratici di vedere i propri server violati, ma domani potrebbe succedere a noi, cioè ai repubblicani. Sì, infatti dice: attenzione che si può ritorcere contro. Adesso, quali sono attualmente, Marco Bassania, i punti deboli attaccabili dell'uno e dell'altro? Trump è più in mezzo, diciamo, a scandali sessuali e fiscali, Hillary Clinton ha questa storia delle email che da un suo indirizzo privato ha mandato delle email abbastanza scottanti, per esempio sul fatto che l'Arabia Saudita e il Qatar abbiano foraggiato in qualche modo l'ISIS, no? Tra le varie. Certo, ma diciamo, i punti deboli sono quelli che già si sanno. Il problema per Trump è che lui, diciamo, è un punto debole, cioè la sua personalità, la sua candidatura è inchiodata a un 38%, 35% di elettori che lo favoriscono, lo scelgono qualunque cosa faccia, però col tipo di campagna, il tipo di durezza, aggressione e anche proprio, diciamo, appunto oscenità varie che ha scatenato, non può superare quel tipo di, non riesce a superare quel tipo di, quella sua debolezza è la sua forza allo stesso tempo, diciamo così. Nel caso di Clinton la debolezza è questa immagine che ha comunque poco onesta, poco trasparente, e che viene confermata da queste email che vengono rilasciate. Ecco, nelle email alla fine non ci sono rivelazioni particolarmente scioccanti, piuttosto delle conferme dei rapporti di business così un po' discutibili tra i politici, diciamo, tra Clinton con influenti, diciamo, protagonisti della politica e del business, appunto lavori così un po' dietro le quinte con queste email che ricordavi anche sull'Arabia Saudita, ma insomma alla fine non si tratta, non siamo davanti, credo, a rivelazioni che possano sorprendere più di tanto né i sostenitori né i critici di Hillary Clinton. Anche in questo caso, Marco, ci saranno milioni e milioni di americani incollati, no, alla TV per seguire questo ultimo duello. Sì, quasi come una specie di incontro pugilistico, credo, cioè una specie di reality TV. Ecco, saranno incollati, ma qualcuno dice ben difficilmente, in realtà il dibattito, qualunque spettacolo offra, probabilmente a questo punto cambierà molte opinioni, ecco, proprio perché ormai la corsa sembra avviata, diciamo, sembra essere consolidata, insomma, attorno ai sondaggi che citavi tu prima, salvo, diciamo, imprevisti, shock e sorprese che non si possono mai escludere. Certo. Già, dice un ascoltatore: è possibile che la mitica politica americana non abbia di meglio che questi due candidati? La sfida è chi imbarazza di meno. Che rispondi tu, Marco, lì dagli States? È possibile, perché è così. Certamente sono due candidati, come si è detto fin dall'inizio, piuttosto deboli, con molti difetti. Ecco, credo che francamente però paragonare i difetti della Clinton con tutto quello che si può dire alla Clinton, tra l'altro lei è stata segretario di Stato, sia francamente un po' eccessivo, ecco, francamente. L'esperienza politica lei ce l'ha, no? È stato ministro degli esteri per Obama, sì, insomma, diciamo una l'esperienza carriera politica, comunque anche una coerenza politica di fondo che può piacere o non piacere, ma comunque è una moderata, diciamo, è un esponente della sinistra moderata, così, del Partito Democratico, è un leader con un record, diciamo, sotto gli occhi di tutti, nel bene e nel male, che ha sicuramente, diciamo, ha segnato così la storia politica americana, e che è, diciamo, comprensibile a tutti. Ecco, Trump francamente è un po' tutt'altra cosa. Vedremo come andrà questo duello, e poi mancano una quindicina di giorni e capiremo, insomma, chi sarà a capo dello Stato, che è ancora il più potente del mondo. Grazie Marco Bassania da New York. Ciao Marco. Voi. E noi adesso ci lasciamo brevemente per una piccola pausa. Intanto i vostri messaggi, dice questo ascoltatore: l'Italia muore, Renzi va con la moglie a fare la sfilata da Obama, vergognoso. Vabbè, il capo di Stato, era una visita diplomatica, tra l'altro l'ultimo state dinner, questa ultima cena di Obama prima di lasciare la presidenza, visto che diciamo mancano 15 giorni alle elezioni presidenziali. E poi altri messaggi che magari leggeremo dopo, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto nel momento giusto. Roberta Giordano con voi, è anche la giusta conduttrice. Da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, anche da Marte, perché di Marte parleremo tra pochissimo. C'è già qualcuno, insomma, un po', diciamo così, come possiamo dire, distruttivo, che dice: era meglio non enfatizzare così tanto la collaborazione italiana nella sonda di Marte prima di sapere se funzionava correttamente. Adesso si dirà per forza non funziona, è stata fatta dagli italiani, via, siamo così arrendevoli. La sonda pare sia arrivata, semplicemente è stato perso il segnale, poi capiremo meglio come sta andando. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi o WhatsApp, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Ma se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo quali sono comunque i fatti principali. Verso il vertice europeo di domani, Renzi replica a Bruxelles: la manovra rispetta tutte le regole, la procedura di infrazione va invece a chi non rispetta le regole sui migranti. L'Europa, la conquista di Marte, fiato sospeso per la sonda Schiaparelli sul pianeta rosso, persi i contatti poco prima che toccasse il suolo, ma non si perdono le speranze di ristabilirli. Stati Uniti, stanotte duello finale tra due candidati alla Casa Bianca. Secondo gli ultimi sondaggi, Hillary Clinton sarebbe in vantaggio di 9 punti. Allarme call center in Italia, a rischio, secondo i sindacati, 70-80 mila posti di lavoro. Il processo Rubiter, rinvio a giudizio per Ruby e altre 22 persone, tra cui la senatrice Maria Rosaria Rossi. L'omicidio Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, assolto dopo 16 anni di carcere, il somalo Hassan, per non aver commesso il fatto. La madre di Ilaria dice: non avremo mai la verità. L'infinita serie di femminicidi, questa volta in provincia di Caserta, un uomo ucciso con un colpo di pistola alla moglie che si voleva separare dopo aver subito anni di violenze. Gli ostaggi italiani uccisi in Libia, indagato un manager dell'azienda Bonatti per omicidio colposo e violazione delle norme a tutela del lavoro. Asili nido, la Camera dà il via libera alle telecamere contro gli abusi, il testo ora passa al Senato. Calcio Champions League, dopo la vittoria della Juventus in campo c'è il Napoli contro i turchi del Beşiktaş e per il momento in svantaggio il Napoli per 2-1. Alziamo lo sguardo verso il cielo, verso l'alto, verso Marte più precisamente, poiché sul pianeta rosso dovrebbe essere atterrato, avete sentito la prima esultanza di chi assisteva nelle basi spaziali europee a questo atterraggio. Nel tardo pomeriggio dovrebbe essere atterrato il lander Schiaparelli, questa sonda nell'ambito della missione ExoMars gestita dalle agenzie spaziali europea, cioè l'ESA, quella russa, e con un importante contributo dell'Italia con l'agenzia spaziale italiana. Il segnale del lander Schiaparelli è stato perduto un minuto prima che il veicolo atterrasse della missione ExoMars toccasse il suolo marziano, però ci sono speranze di ristabilire questi contatti. Lo chiediamo a Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Professor Battiston, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Che cosa dobbiamo pensare quindi? Ce la fa, non ce la fa? Questa sonda è arrivata? Che cosa pensi? Iniziamo a dire che la missione ExoMars 2016 è composta da due elementi. L'elemento che è l'orbiter, che si è messo in perfetta orbita attorno al pianeta e sta trasmettendo regolarmente i dati sia che riguardano il suo stato, i suoi strumenti a bordo, anche quelli di carattere scientifico, e chiaramente il ponte radio che ci servirà per capire la seconda parte della missione, quella che si chiama anche Schiaparelli, ma tecnicamente si chiama Entry Descent Module, che è il test, la prova di ingresso nell'atmosfera del pianeta rosso a 21.000 km l'ora, all'apertura del paracadute, i retroraggi e quant'altro. Quello che abbiamo ottenuto fino adesso, ma i dati, io proprio abbiamo sentito poco fa la conferenza stampa dell'ESA in Germania, riguardano 5 dei 6 minuti in cui il lander è entrato in atmosfera, e questi dati devono essere ancora completamente ricevuti, perché una grande mole di dati analizzati domani mattina sapremo di più sul contenuto dettagliato di questi 5-6 minuti dell'ingresso nell'atmosfera marziana, e a quel punto ci diranno, capiremo meglio che cosa è successo, se ci sono possibilità di recupero e che i dettagli di questa fase così complessa e difficile dell'ingresso nell'atmosfera marziana. Diciamo che per il momento abbiamo un grande successo per l'ingresso dell'orbita in orbita, un successo parziale che riguarda l'ingresso dell'lander all'interno dell'atmosfera. Aspettiamo di saperne di più per capire se la missione potrà produrre altri dati utili e necessari per capire, diciamo, come la missione del 2020, che è il vero obiettivo di questo doppio missione marziana, avrà luogo. Professor Battiston, tra l'altro quello che è anche piuttosto importante e rilevante per l'Italia è che questo lander è stato progettato e costruito nel nostro paese, il primo veicolo europeo a mettere piede su Marte, no? Tra l'altro, che forma ha? Perché sembra un impasto di pizza con sopra delle lattine di metallo buttate lì, che cos'è esattamente? Questo è la versione che arriva sulla superficie del pianeta marziano. All'ingresso sembra invece un piccolo UFO, perché c'è una calotta coperta di materiale che resiste ad altissime temperature legate all'attrito con l'atmosfera marziana, e invece la parte superiore è un cono che protegge appunto lo Schiaparelli durante la fase di apertura del paracadute e diciamo di successivo distacco. Quindi dall'esterno sembra un piccolo disco volante, quando poi si apre e si staccano le coperture sembra effettivamente quella specie di pizza ricoperta di fogli argentati di cui lei ha parlato. Professor Battiston, per chiudere, per spiegare un po' al di là, no, della vocazione umana di esplorare qualsiasi luogo del globo terracqueo, qual è l'importanza di arrivare su Marte per capire, scoprire, fare che cosa? Ma noi abbiamo questo obiettivo affascinante che ci sta motivando da più di 10 anni, e che è l'elemento portante di ExoMars e della prossima missione del 2020. Arrivare e poter scavare, poter fare un foro in profondità della superficie marziana, perché sappiamo che là sotto c'è acqua e ghiaccio, e ci potrebbero quindi essere ancora delle tracce di quella che potrebbe essere stata, magari qualche miliardo di anni fa, una forma diciamo biologica attiva, una forma di vita sul pianeta rosso. Sappiamo c'era moltissima acqua, che c'era un'atmosfera diversa. Oggi vediamo un deserto rosso, ma sotto quella superficie ci potrebbe essere una grande sorpresa. Grazie professor Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Domani capiremo un po' come sono andate le cose. Grazie ancora e buon lavoro. Arrivederci, buonanotte. Grazie, buonanotte. Direi di aggiornare subito chi sta viaggiando e poi ritorniamo insieme. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme, Roberta Giordano con voi, ve le ricordo in pochi secondi le notizie principali, mentre continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Renzi all'esame dell'Unione Europea, ha parlato della manovra economica da Washington e ha detto rispetta tutte le regole, non c'è un rischio procedura, il rischio c'è per chi non accoglie i migranti. E poi ne abbiamo appena parlato della missione ExoMars su Marte, fiato sospeso per la sonda Schiaparelli, costruita, progettata in Italia, è stato perso il segnale sul pianeta, dovrebbe essere atterrata oggi nel pomeriggio, ci sono ancora però speranze di riprendere i contatti. E poi per quanto riguarda le presidenziali americane, Hillary Clinton vola nei sondaggi, secondo gli ultimi sondaggi sarebbe in vantaggio di 9 punti su Trump, e stanotte c'è l'ultimo duello TV. E allarme in Italia per i call center, a rischio secondo i sindacati 70-80 mila posti di lavoro. Il processo Rubiter, a giudizio, rinviato a giudizio Ruby e anche la senatrice di Forza Italia Maria Rosaria Rossi e altre 21 persone. Le accuse vanno dalla falsa testimonianza alla corruzione. Nel processo invece per la morte di Ilaria Alpi, dell'omicidio di Ilaria Alpi e l'operatore Miran Rovatin, assolto Hassan, insomma lo Hassan, dopo 16 anni di carcere per non aver commesso il fatto. Per quanto riguarda invece gli ostaggi italiani uccisi in Libia, è stato indagato un manager dell'azienda Bonatti di Parma per omicidio colposo e violazione delle norme a tutela del lavoro. E poi c'è il Napoli in campo contro i turchi del Beşiktaş, e che conducono per il momento 2-1. Europa 24 notte. Torniamo a parlare di Grecia. Domenica scorsa Alexis Tsipras, primo ministro greco, è stato confermato alla guida del partito Siriza con poco più del 92% dei voti del congresso. Oggi Tsipras ha cominciato un tour europeo per cercare di ottenere qualcosa di più che vaghe promesse sul taglio del debito ellenico. L'ultimo capitolo del libro Grecia è stato scritto la scorsa settimana a Lussemburgo. Consecutive quarters of growth. Today we first of all had a discussion on Greece. Jerome Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, dice che l'economia greca è cresciuta per 3 trimestri consecutivi. Stanno lavorando i greci, ma non abbastanza. L'Eurogruppo doveva sbloccare 2,8 miliardi, di fatto ne arriverà poco più di uno subito. Non appena Atene approverà le riforme pattuite, arriveranno anche i restanti. Sul tavolo altri tagli alle pensioni e poi le banche, le privatizzazioni e la fine della contrattazione collettiva. Fatto sta che anche questi scarsi 3 miliardi servono solo a pagare scadenze e interessi, come del resto la gran parte dei soldi versati alla Grecia, che hanno ripreso in velocità la via d'uscita verso le banche europee. A scriverlo l'ufficio di valutazione indipendente del Fondo Monetario nel luglio scorso. Nel rapporto c'è anche scritto che l'FMI si è spinto troppo oltre il suo mandato perché si è impegnato nei confronti di un paese il cui debito era insostenibile. Ecco perché la signora Lagarde minaccia di abbandonare il programma e di fatto il fondo si è tirato fuori, non negando però il sostegno. Ormai sono mesi che da Washington invocano un taglio del debito, che è poi l'altare sul quale Tsipras ha rottamato tutto il suo programma elettorale. La Grecia attraversa il 7° anno di crisi e il 3° salvataggio. Per assecondare le richieste dell'Europa, Siriza sta portando avanti una politica lontana anni luce dalla sinistra, una politica che sta pagando a caro prezzo. Nuova Democrazia, partito conservatore, è primo nei sondaggi. Per non disperdere tutto il capitale di voti, Tsipras è tentato da nuove elezioni. Potrebbe ancora ottenere un risultato a 2 cifre, cosa molto improbabile invece dopo il termine naturale del mandato nel 2019. Il premier comincia oggi un viaggio in Europa. Dopo Bruxelles spera di essere ricevuto anche a Berlino e a Parigi. Tsipras ha sacrificato tutto per la riduzione del debito, anche l'acqua e l'energia, messe all'interno di un fondo destinato alla privatizzazione. Un bandito per la sinistra più estrema, perché in barba a tutte le promesse ha messo in vendita tutto il possibile e magari, dicono in tanti, si sta preparando un futuro roseo al di fuori della politica. Un condannato per gli altri, perché l'unico modo per tirare fuori la Grecia dal buco nero è quello di ottenere un taglio consistente del debito e per tentare di ottenerlo il Premier deve esaudire tutte le richieste europee, che sono fatte di rispetto delle regole, ma anche di necessità elettorali interne. In Germania, per esempio, una mano tesa ad Atene alimenterebbe il populismo a danno della cancelliera prossima al voto. Peccato che in Grecia siano i continui tagli ad alimentare il populismo e Alba Dorata è sempre saldo come 3° partito. Gli analisti concordano nel pensare che, in sostanza, la politica europea sta aggravando le condizioni finanziarie greche e potrebbe aumentare l'instabilità politica di Atene, che è poi la prima causa di rischio del suo debito, l'ennesima spirale che si autoalimenta. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ritorniamo insieme ancora ai vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, numero per WhatsApp e SMS. Qualcuno dice: Giordano, ma lei crede davvero che sono andati su Marte? Insomma, non sono andata lì a verificare, ma mi parrebbe strano che 4 agenzie spaziali europee, compresa l'Italia, dicano delle fandonie rispetto alla sonda Schiaparelli. Perché mai dovremmo pensare questo? Ma a volte avete dei dubbi molto particolari. Adesso invece non so se da mettere in dubbio questa partita del Napoli in Champions League. Dario Ricci, che dici? Direi proprio di sì, perché il Napoli stasera proprio non c'è. Ricordiamolo, siamo intorno al 60° di gioco, il Besiktas in vantaggio per 2-1 e pochi istanti fa i partenopei hanno fallito anche un calcio di rigore. C'è stato il fallo del portiere dei turchi Fabri su Mertens, sul dischetto è andato Insigne, debolissimo il suo destro, alla destra a sua volta di Fabri, che ha avuto gioco facile nel deviare il pallone e poi nel salvare anche e evitare anche il calcio d'angolo. Quindi un Napoli davvero spento e che rischia di rimettere in gioco con questa eventuale sconfitta, cara Roberta, una qualificazione che davvero sembrava in passo e che ancora potrebbe essere ottenuta anche questa sera, ma bisogna prima pareggiarla e poi eventualmente vincerla questa almeno partita. Pareggiare, cioè, se pareggiasse già sarebbe un'altra cosa, insomma. Sì, senti, vuoi parlarmi anche di un evento? Vuoi parlarci di un evento domani? Sì, perché questa sera cerchiamo di rincuorare il nostro caro amico e collega Marco Bellinazzo, che sta appunto soffrendo qui a fianco a noi per il suo dietro Napoli, di ma domani dovrà essere, speriamo che la squadra di Sarri recuperi, perché domani dovrà essere in grande forma, perché sarà uno degli animatori di questo importante forum indetto dal gruppo 24 ore sullo sport and business. Domani avremo il gota dello sport italiano a livello di atleti, a livello di dirigenti e di esperti, proprio qui nella sede di via Monterosa, per fare il punto su tutti gli aspetti dello sport and business. Perché? Perché a partire dal 22 ottobre, da questo sabato, il giornale si arricchisce proprio di questa sezione sport and business, una pagina di approfondimento ogni sabato e domenica, con i commenti, le analisi degli esperti del Sole 24 Ore, e quindi proprio a partire dal nostro Marco Bellinazzo. Quindi speriamo davvero che il Napoli recuperi, ma comunque che non domani sia depresso per domani, Marco, no, ma domani comunque sarà grande sport e anche grande business qui al Sole. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario. Intanto vedo un'agenzia dove la portavoce della Casa Bianca specifica che Malik Obama, che è un fratellastro di Obama, che tra l'altro è un sostenitore di Trump, che mette in imbarazzo, più di una volta ha messo in imbarazzo Barack Obama, dice: non ci sono grandi rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il suo fratellastro Malik Obama, che ce l'ha con il fratello Barack, perché non l'aveva sostenuto tempo fa quando si era candidato governatore di uno stato americano. Ci dobbiamo lasciare e ci riaggiorniamo brevemente alle 22:00.